Sento il cuore in sesta che va a 100 all'ora. Ma siamo parcheggiati a bordo strada. Abbiamo sia la radio che la voce rotta. Ma che fai? Hai già le chiavi in mano, cazzo quanta fretta. Potremmo stare zitti o dirci tante cose. Tanto tra di noi è sempre guerra fredda. Mi odio, no, lo so, ti sembrerà ridicolo, romantico, un po' discutibile. Ma mandare tutto in fumo ormai è una follia fra tante. E c'è un sole che spacca le pietre, ma è tutto tempesta. Per te non verserò neanche una lacrima, un goccio di me. Ammetto che l'ho fatta grossa, come un lampione che copre l'eclissi, come il tuo gatto che graffia una borsa, la tua porta che mi prende a schiaffi. Dormo sopra un taxi, dove finirò? Cosa ne so? Forse dall'altra parte di Roma. Mi odio, no, lo so, ti sembrerà ridicolo, romantico, sono inguaribile. Ma lasciare tutto al caso, sai, è una follia fra tante. E c'è un sole che spacca le pietre, ma è tutto tempesta. Per te non verserò neanche una lacrima, un goccio di so.